buonasera. No, non stava funzionando neanche questa radio. Non sta funzionando? Cosa non sta funzionando? Adesso si è ripresa, non stava andando riportante. Insomma, radio di plastica, vai. Porca miseria, non so se riprendeva il microfono, riprendeva o cosa. Schiacciavo e non saliva lo smitter. Ma l'importante c'era però. Adesso, quando avessi dito fischiare si era ripresa. Infatti stavano dando 3-4 colpi di portante per vedere cosa succedeva. E quando hai dato 3-4 colpi di portante, l'importante c'era, il segnale c'era. Sì, si è ripresa dopo un pochino, cla. E ieri stava funzionando bene. C'è radio. Radio ucciso. E questa, pensa tu, quanti anni c'ha questa radio? Da quando sono stato ricoverato in ospedale l'avevo presa, come ero uscito per Natale. Ma qual è quella che avevo dato Franco? No, questa l'ho presa nuova di pacca io. Questa è nuovissima, si può dire che non l'ho mai usata. Ma quella che avevo dato Franco, che l'avevi venduta? Quella lì, sì, l'avevo dato poi, Cla, ma anni addietro, Quella l'avevo data io, Franco. Tu mi sei già venduta. Non si è più sentito. Ogni tanto entrava prima. No, non l'ho più sentito, né visto. Prima bazzicava qua in zona, che faceva commissioni. Poi è sparito. Non so dove sia, dove non sia. Non lo so. Non lo giaccio. Ci siamo visti una volta da Vittorio, no? Forse un paio di volte da Vittorio. Il laboratorio, poi non l'ho più visto. Sparito. Non lo so, Cla. Non te lo so dire. Se vuole già lo sa il mio numero. E anche il mio. L'ho dato nuovo anche. Allora me l'aveva chiesto una volta che l'aveva perso. L'avevo dato e poi l'avevo chiamato un paio di volte e poi l'avevo richiamato lo stesso e poi sparito. Le briglie gli ha messo la compagna. Le briglie gli ha messo, se no Franco non era così, no? Già lo so. Vabbè. Se vuole entrare anche in radio già siamo qua. Si abita sempre lì, poi non lo so. Che ne so, non vedo neanche più l'antenna. Non so se gliela tolta, l'hanno fatta togliere, si è rotta, non lo so. Ha detto un sacco di cose, non ci ho capito, un accidente. C'è un di polo, ma per fare due chiacchiere dentro città già va bene. Cava. Che poi c'aveva pure, vabbè, l'altro 140 che c'aveva non funzionava, mi sbaglio. Lui ci ha venduto. Anche quelli ci avevano adatto. Tutto adatto allora. Tutto adatto. Adatto tutto. Il 140 mi sembra che c'era il finale bruciato. Non andava più di un watt e mezzo. Va bene, non c'è problema. Vabbè, contento lui, vuol dire non interessava più niente. Baracchino già ce l'ha, se vuole entrare, farsi le chiacchiere, può entrare. E tu che si fa attendere? Mi sono ripreso poco fa, che mi stavo riposando da stamattina. E io lo stesso sdraiato al divano. Dovevamo uscire però, il tempo è un po' così, si è rinnovando a lungo. Andiamo da casa, c'è un freddo che fa. E se conferma, allora posso scendere la mia suocera io più tardi, verso le 7:30. Esco di casa e poi vediamo un po', andiamo a trovarla e poi ce la rientriamo dopo cena. Io non so, dovevo andare fuori infatti, a cena. Però a me uscire così, andare a cena, tornare, senza manco farti un giro, una passeggiata. Tutto è scatto. Troppo tempo brutto sta facendo, questo aprile proprio un disastro. Stavo guardando e dice che verso maggio arriva il caldo, poi ci sarà a vedere. Ma neanche ancora domani, così ha dato più già che domani, molto probabilmente anche inizio della prossima settimana. Già lo so, speriamo bene che si riprenda. Inizia a fare belle giornate come gli scorsi giorni. Pasqua aspetta, ci è fatto un po' brutto. Vabbè, infatti. Ma la testa era riaperta, riapulita, ti rilassi, che poi, per modo di dire, trovi sempre un qualcosa da fare e passi la giornata. No, ma c'è una bella giornata già, già è bello stare in campagna, ma se sta piovendo devi stare dentro, una bella rottura di balle. Capito? Ma vediamo, non sarà un problema, comunque qualcosa faremo. Gara, gara! Cazzo, mi sono dimenticato di portare la mascherina ieri a coso, gara. E vabbè, quando riesce, quando mi chiama per ritirarlo, gliela scendo e gliela piazziamo. La mascherina? Perché cosa ne hai tolto la mascherina? A 48, quando l'avevo aperto, là. Mi sono dimenticato di scendergliela ieri. Non vuoi ritirarla? Te la porti e te la fai piazzare. Sì, intanto un attimo, quattro viti sono da metterli. Vabbè. Che noia. Poi non è entrato più, non c'era nessuno stasera, no? No, la verità, questa era accesa, questa è un po' spenta. Però c'era il volume basso, si è chiamato qualcuno, ma non ho sentito niente. Io l'ho appena accesa, si può dire, era spenta tutto il giorno. Gaba! E si fa sentire qualcuno, infatti, sono già le 6. Non è che non già sei anche il radio gira. Comunque, sono qua, sto guardando la TV. E va bene. Ripeto, la giornata è abbastanza grigia, brutta, c'è freddo. C'è freddo. Anzi, stamattina alle 7, quando sono entrato a lavoro, non si stava neanche tanto male, c'erano già forse 11 gradi. Ma anche quando sono uscito io c'erano 9 gradi, poi ho aumentato. Adesso penso che sia abbassata di nuovo, non so quanti gradi ci sono, ma comunque non è. Ci sono 13, 14 gradi, 13 gradi, non so. C'è aria fredda, porto la finestra, volevo farci aria fredda. Umido c'è. Tanto umido. Umido. Quanto umido. Va bene. Ma sto guardando, ma 213 è da 50 ohm di impedenza. Allora, tutti sono cavi corsiali da 50 ohm qui. Gaba, chi è che sta fischiando su un altro canale? Ah, boh, io non sento niente. Boh, mi sa, ha avuto l'endo la radio. Ehi, ma sì, dammi c'è la radio. Boh, io 87 non sento manco Antonello, se si sposta nel 23, nulla. Un po' si ritira, se attacco l'ora 48 si spegne. Radio Voyager, perché l'idea? Mi è piaciuto usarla un po', fare due passaggi, anche perché col microfono, con il MP5 c'è una modulazione bellissima, ma prende tanti di quei colpi. Già lo so che purtroppo è così. Spero di trovare più presto una radio decente, come un modo me la prendo. Così questi, uno dei due parte. Devi cercarti un 140 o qualcosa del genere, 80. 440 se lo trovi a prezzo buono, baracchini, oramai. Ma ne tengo uno giusto da lasciare in fuoristrada per quando mi possa servire. Ma stiamo usando le portatili. Va bene. Io lo so. No, beh, un barchino ci vuole sempre, io ce l'ho. Però lo lascio spento. Quando mi serve lo accendo così. Lo uso sempre questo. Cavaliamo, l'occasione giusta devo trovare, ecco, per il 4,40 ne voglio 400 euro. Che cosa? Che ne trovi 4,40 a 400 euro? Poi bisogna avere anche le condizioni in cui sono. A 400 euro si lo mangiano i 4,40. Ho venduto uno a 300 io. pagavo già 400 euro. Non valgono più a niente, Daniele. E poi c'è quando la tiro prendi che non è revisionato, se la vuoi di qualche mese ti lascia a piedi, ce ne voglio altri 200 per metterla a posto. E vai, io se do questo non lo do, perché non lo do, ma se dovessi dare questo l'ho garantito. Questo è stato revisionato l'anno scorso, 180 euro, anzi 200, compreso il trasporto, ma ha revisionato tutto per bella la zetta. Anche due relè mi hanno cambiato di commutazione, è nuovo, nuovo, questo è veramente a posto, c'ha tutti i fitti, scheda fonemi, questo è completo, ma non lo vendo, perché quanto devo vendere, secondo te? Ho speso 200 euro l'anno scorso. Assolutamente, bisogna stare attenti con i 440, perché se te lo danno e non è stato revisionato già da anni, ti lascia a piedi sulla prima mondezza. Lo so, però guardato pure, c'è uno giù a Cagliari, sta andando a 400, poi se tu ti fai un giro, ma adesso sto parlando di eBay, ma di subito, se ti fai un giro anche lì, tutti 400, 480, 450, dipende già, ti mettono in mezzo. Infatti se lo tengono, c'è neanche una sassa a 450, no? Non si può comprare a 450 euro, un 440. Nel modo più assoluto sono calati tantissimo, massimo 350 euro, massimo, ma deve essere in ordine e revisionato, stanno vendendo 140, 250 euro. L'ho visto, ne ho trovato uno lo stesso, una cifra del genere, di 140. Assolutamente, è troppo caro. Troppo caro. Ha venduto Gianni Capri 2 200 euro, 440, 200 euro. Veramente l'ha dato a me a vendere, io li ho venduto subito, immediatamente. Subito, due giorni è durato. Eh beh, a quella cifra, cavolo, a Sappada me lo sei preso io, cra. Infatti, le occasioni ci sono, poi c'è quello che ci vuole guadagnare tanto, ma si va bene, capito? Beh, io sotto mano c'ho anche, quando ti decidi, un bellissimo 140 a 200 euro. Cava, solo il 140? Non ce l'ho qua, ma so chi ce l'ha, te lo sta dando, 200 euro. Nuovo, nuovo. Lo so, Marico, solo 140, vabbè, microfono e basta. Sì, microfono normale, ma un MC60 a 50 euro, ce ne quanti ne vuoi? Ne ho visto uno a 100 euro, cazzo. Ma ci vogliono a mettere gli MC60 a 100 euro, costa 130 euro nuovo. Non riesce a comprendere niente, cazzo. Io il massimo che ho venduto, l'MC60, ne ho venduto tantissimi, anche con le radio, massimo 60-70 euro, ma massimo, proprio nuovi dentro la scatola. 100 euro è troppo, non lo venderà mai. Ho visto l'altro giorno su Facebook. Mi è apparso, non mi ricordo se è un negozio o un rivenditore privato, 200 euro un MC60, 200 euro. Dammi un controllo. Ah, Antonio. Ma Antonio? No, un messaggio su WhatsApp, dammi un controllo, fanno scala. Ognuno fa il prezzo che vuole, capito? senza rispettare i cosi, praticamente i prezzi di mercato, infatti non vende nemmeno più assolutamente niente. Infatti poi la roba li stagiona, non riescono a venderla, se non fai prezzi competitivi, questa è peggio la storia della macchina mia. Cavolo, c'è gente che ti spara cifre allucinanti e c'è gente che te ne spara la metà. C'è un... vogliamo fare un business allucinante. Aspetta, vediamo se c'è qualcuno su 10. Avanti. Santiago 1 sta arrivando. Come ti pensi io di voce a cucciare? se parla Daniele, segnale 1, non sto dicendo a te, prego, modulazione buona, segnale 5. Anto, segnale 1 stai arrivando. Non ho capito un cacchio. Pondi l'antenna invece va a vedere un laiburu. Però c'è il capo attaccato all'albero. Un attimo di riserva, un altro messaggio, non mi senti. Se non ti sento, come faccio a risponderti? Basso basso. Così Daniele, c'è un limite da rispettare, no? Se non rispetti quel limite, no, come fai a vendere? Infatti, è così, ma la gente non vuole capire, farà prezzi, numeri, credo ci siano i polli subito a caderci. Va bene, io neanche lo sentivo l'Antonio, si muoveva leggero lo Smith, sentivo questo brusio sotto, ma non so neanche chi sia. Vabbè, infatti ti ripeto, se lo tengo, poi ribadisco che io la radio se devo comprare la compro a gente che non le tiene sicuramente dentro l'armadio a fare bellezza. Le radio vanno usate, soprattutto il 440, se non lo usi ti lampiamo un letto. Io prima o poi ti lascio a piedi. Perciò ti ripeto ancora una volta che vanno comprate da gente fidata e soprattutto che sia revisionata, perché io questa te lo dimostro. C'ho la fattura, c'ho la fattura di Bianconi, revisionata l'anno scorso, proprio prima che chiudesse, me l'ha fatta. E poi 6 mesi dopo ha chiuso, perciò non ci sono problemi. Carta la mano, ma secondo cosa compri, ti lascia a piedi, se la paghi 400 euro ce ne metti 200 sopra, le barrebbe 600 euro. 600 euro trovo un HF con le controballe, c'ho il 756 della ICO mio che ho pagato 600 euro. E infatti, si conferma. Adesso vediamo, la serie mi procuro un 140, almeno quello viaggia, e trick and track e rock and roll. Io 140, sì 80, 140 li trovi a 250 euro, sì 80 lo puoi trovare a 300, 350, ma deve essere in ordine anche quello, che pure 350 euro è già troppo. Ne ho visto, a parte vabbè, so chi ce l'ha e lo sta vendendo e me l'ha portato anche qua a memorizzarlo, quindi, perché c'è quel passaggio che pochi conoscono dello split, sino al canale 9 memorizza normalmente, poi dal canale 9 in poi devi fare il passaggio con lo split perché sennò non ti memorizza il canale. Me l'ha portato, l'ho memorizzato e esce veramente molto bene. Ma ecco che se capita lo vedeva, se tu dimmi quando lo vedi avvisami, lo vendiamo subito immediatamente. Esitta che devo rispondere a Antonio. Ehi Acra, fai pure. Ciucuccio. Milomi, comandatore, buonasera. Buonasera a lei. Dicimi tutto. Beh Antonio, cosa stai combinando, che è assente in questo periodo? Beh. Documentazione basta, più che altro. Cosa devo fare? Gava. Va bene. Gava, non c'è problema. Se vuoi baracchino mi te lo prendi, 100 euro, adesso. Se vuoi. No, basta le baracchine, sto parlando con Claudio, mi bastano questi due, uno è dal dottore, mi è rimasto questo, per adesso. Non ne voglio più, basta, uno dei due lo faccio fuori, prima o poi, e mi rifaccio nuovo la stazione fissa. Già allora siamo a posto, non c'è problema, va. Sono d'accordo anche con te, per quello. Intanto, per lui se ne faccio in macchina, va più che bene. Quando mi serve ne tengo uno e ciccia. Quando vuoi te lo sai, chiamami. Però non c'è problema per quello. Più che altro mi serve pure un alimentatore, vedi? Perché ne ho uno da 7 ampere e uno da 10 ampere. Se me ne serve uno intorno ai 30 ampere, 40 ampere. Dai cinesi c'è, io lo sai, dai. Ho stato con la cazzata d'altronde, quindi figurati tu. Ma non mi piglia a fuoco da voi, Antone. Andiamo assieme, se lo pigliamo assieme, qual è il problema? Non dovete avere problemi, Rocchello. Andiamo assieme, pigliamo l'alimentatore, così ce l'hai. Andave. Oh, non è che quelli switching che vendono dalla Prox siamo assai diversi, tutti da lì arrivano intanto. Ma cosa cazzo Prox, cazzo, sono quanti incendiati quelli lì. Mi hanno portato 4-5, non è 1-2-3, no, 4-5-6 mi ha portato. Il discorso è quello. Il discorso è. Mi ha dato i soldi, si sono fatti incurare e basta. Il discorso è quello lì. Il mio lo stesso l'ho dato. Poi c'avevo l'ho dato perché a un certo punto non stava più attaccando neanche la ventolina di raffreddamento, cioè va il. E si attaccava in automatico. A un certo punto ho smesso di attaccarsi in automatica e ce l'avevo fissa. E appunto per quello, quindi figurati tu. Vabbè, ok. Quando vuoi tu, chiama, non c'è problema. Andiamo assieme ai cinesi e facciamo tutto. Anda bene Meda. Piano piano mi rimetto in moto. Cavale Rogero, Claudio ci sei? Claudio al telefono ancora. Oggi mi si è abbassato pure il QRM, fino a ieri era a 2, 3, oggi è a 1, perfetto. Lo so. Ma sembra mi è arrivata un'offerta al telefonino, 500 euro di quella parte che c'ho, cazzo, immediato. Ho rifiutato, la verità, lo sai che l'ho rifiutato? Forse avrò fatto male, non so, quello che è, il quadro in banda. Siccome è nuovo, eccetera, eccetera, capito? Vabbè, adesso deciderò. E non volevi mettere in vendita, tanto è, su subito. No, non è che lo subito, siccome ieri sera ho installato l'applicazione di Facebook, WhatsApp e cose del genere, mi sono arrivati i messaggi, hai capito? C'è una persona che in pratica è interessata della parte che ho io, tutto lì, non per altro. Apo comprendi. Va bene, fai tu Antonio, valuta, ti fai un giro di conto, se ne vale la pena ce lo imbarchi. No, secondo me no, la verità, perché voglio di più io, no, non è che voglio di meno, voglio di più, scusa, ho tolto quel cazzo di cesse della Kenwood, cazzo mi piglio cazzo a un certo punto, che cosa, niente, no, ho fatto una spesa, basta, quindi a un certo punto io voglio ciò che è stato, ciò che io ho pagato, tutto lì, se devo a pagarmi i contanti è un discorso, se no se la pigliano in culo. Il discorso è quello lì. Sì, a me non me la puoi dare a cambiare. No. Spiritela. Perché tu sei maniaco, non pelato. No, non maniaco, maniaco. Sì, c'è perlomeno. Ciao Claudio, la sera. Barrato. Allora, dici qualcuno, ma non la dai, vattene in dire, ma cosa vuoi prendere meglio di quello? Vattene in dire, va bene, va benissimo quello. Ultima radio, cosa stai a cambiare intanto? Vabbè niente, che fai? Cosa devi giambare? Nuda, la verità nuda. Allora, va bene. Oi. Cosa devi comprare Daniele? Cosa devi comprare? Io niente, Pompugno che sta vendendo, ha aperto la bancarella. Magari. Non vende niente Pompugno. Già se la tiene, quella è una bella radio, non va nuovo. Vuoi andare a comprare roba? poi non si via nulla, almeno c'è una radiosedia nuova e se la tiene, tanto non serve a nulla stare cambia cambia. Poi tanto è l'Alan 48 che finali monta? 19 aspetta 23-14 sono 19 aspetta conto che rispondo fondo minuti di carta lo è. Aspetta, due secondi e te lo dico subito. Dimmi compagno, lo sei visto l'indicativo. Vale, mi scusa. Contemporaneamente, non so come fai, vabbè, comunque andiamo bene, dai, avanti Daniele. Ecchime, avete parlato in due poco fa, si è capito una mazza. Con chi? Non lo so, stava parlando Pompugno con Gianni assieme. Vabbè, tanto me, cosa ci vuole di Neros a comprare questi finali? Gli altri 10 euro ci vogliono, la verità, perché costano 2 euro per ciascuno, quindi a un certo punto 5 euro ci vogliono, non è che ci voglia molto. E dove Antonio? Fuggiaro ne ha? Ce li ha Fuggiaro, ce li ha. Ok, va bene. Lunedì ci vado a vedere. Allora, me lo credo fare una cosa, a me. Passi una mattina a casa, ti rompa un attino, ne stacchi i finali, e li metti a quell'altro. E così non spende nulla. Dipende da te. Io ne stacco i finali e metto nell'altro, secondo te io ci occupo una cosa del genere, semmai ti porto il baracchino e lo metti a posto tu. Come vuoi tu fai quello che vuoi, non c'è problema, io sono qua a casa, lo sai. Vabbè dai, non so se dobbiamo andare in campagna domani mattina, ti faccio sapere. Comunque se sei disponibile io te lo do quello lì e me lo metti a posto, capito, così lo tengo di scorta. Vabbè. Quanto sta dicendo Gianni? Aspetta un secondo, due minuti, solo due minuti, là. Ho messo WhatsApp, Messenger, quindi sai dove trovarmi Claudio, adesso. Siccome l'avevo distaccato, adesso ce l'ho. C'è un altro numero, hai capito? Quindi a un certo punto mi arriva il messaggio. Hai capito? Tutto lì. Trappa dell'ogelo, va bene, così ci teniamo in contatto, dai. Ci vediamo, va bene, ok, avanti Gianni. Eia, volevo chiederti se c'hai l'applicazione Telegram, che è praticamente l'equivalente, più o meno l'equivalente di WhatsApp, volevo sapere se ce l'avevi installata. No, negativo, c'ho solo WhatsApp, non c'ho neanche Messenger, nulla. L'unica applicazione che ho è WhatsApp, mi lascia lì, sa che già l'indro dovrebbe con chi se, ma gente già di collare. No, praticamente è l'equivalente di WhatsApp, diciamo che insomma non è conosciuta a livello di WhatsApp, ma siamo lì quasi, più o meno le stesse funzioni e niente, siccome io ce l'ho installata anche nel PC, ti stavo chiedendo se ce l'avevi installata, così eventualmente potevamo comunicare con quella, capito? No, già, non ce l'ho, se no la trovo diretta, c'è solo WhatsApp e basta, il resto niente, già va bene quella lì, che io uso poco il telefono, giusto così con i vocali, con le persone che anche con te, insomma. avanti Daniele, prendi. Cava, cava. Tu perché non... solamente il Telegram già? No, vabbè, dico... rispetto a WhatsApp, Telegram può funzionare anche se... se non hai il telefono vicino a te, capito? Cioè, l'applicazione funziona... funziona uguale senza il codice QR come WhatsApp, capito? Telegram non ne ha bisogno, mentre WhatsApp praticamente devi avere, devi fare la lettura del codice QR se vuoi usare WhatsApp nel PC, capito? Ho capito. No, io ce l'ho Telegram, ma non lo uso mai. Non lo uso mai, se uso WhatsApp la maggior parte delle volte. Quella si è autoinstallata, diciamo. E va bene, riprendi qua. Vabbè, se è una cosa interessante si può anche installare. Solo che ti ripeto, io non ne uso, quindi già va bene così. Va bene. Antone, vuoi riprendere o stai facendo cosa? Sto facendo cosa? Riprendi già con Daniele, un secondo, arrivo subito. KK. E beh, le ricerche hanno dato buoni frutti, Daniele, le ricerche su internet ieri, oppure hai mollato subito? No, ho fatto le ricerche, la verità si dica, stavo girovagando per quel sito che mi ha dato tu ieri, poi stamattina li ho anche chiamati e non mi ha risposto nessuno, la verità si dica. Adesso riprovo lunedì, vabbè, cosa mi dicono? Oggi vabbè, sabato sicuramente magari non lavoravano e quindi erano chiusi. Boh. Mi viene da pensare questo. Comunque adesso, tanto non so se Marcolino è ancora in ascolto. Riguardo a quell'antenna, lui sicuramente, visto che ce l'ha installata, lui ti può dare qualche dritta in più, cioè nel senso, visto che l'ha piazzata e la sta usando, sicuramente ti dà molte informazioni, capito? Quindi se Marcolino è in ascolto, se ci vuole se vuole contribuire alla causa. Marco ha chiuso le trasmissioni, insomma è stato tutto da Marco, ma se mi vende l'antenna la sto prendendo. Non rende quanto una Mantova, ci avrà un dB in meno. Non avrà la larghezza di banda della Mantova perché è più sottile, però il bello è che è leggerissima. Leggerissima, pesa 2,5 kg, buce tutto, è sui 6,5 metri, poi il resto è bobina, ha tre radiali da 1,30 m, c'è una 5/8 modesta, però non devi tirantare, io ho messo un palo da 3 metri, 3,5 massimo, no. L'ho messa bella bassa, non ho tirantato niente, o Daniele. Alla fine io non volevo mettere cavi tiranti, perché qua poi siamo in condominio, ogni volta per ogni cosa devi bisticciare, capito? Poi quando si sfascia, un buon viaggio, Eia, sto pensando di prendere quella, Marco, prendere la gemella tua, visto che ce l'hai, la usi. E niente, se no c'è anche la gemella, la Venom, come cavolo si chiama lei, che è molto simile. La Venom, ti ricordi il fabbricante? Chi la fabbrica? Credo che sia estera, no? Di fabbricazione estera. No, adesso te lo dico chi la fa la Venom. Aspetta un secondo che ce l'ho memorizzata qua. Aspetta, 30 secondi, adesso non mi appare. La fa Napoli. Ma fa Napoli, era sempre a portata di mano. Aspetta 30 secondi, dai, riprendi. Allora, l'ho trovata già, Venom 5/8, stazione base, però sto vedendo che ha dei radiali ultracorti, io non so, io chiedo a Claudio che magari ne sa qualcosa in più, ma io vedo radiali cortissimi, tipo 50 centimetri, sembrano radiali di una X30, cioè almeno un ottavo d'onda fa i radiali, i miei sono da 1,30 m, Se no che piano di massa c'ha? Boh, Claudio, nulla ne sai. Io mi sembra l'ho vista, c'era un 80 cm sono irradiati. Sì, vabbè, ma se questi irradiali sono così vuol dire che vanno bene per il piano di massa. Vuol dire che l'antenna è... quanti metri è quell'antenna? Sicuramente sarà più corta rispetto alla... all'altra che c'è, quella che c'è tu. 580 lì c'è qua. 580 è quella lì. Quella lì c'è tu, Marco, quant'è? Pare che è più grande, più alta. Circa 6,5. Circa 6,5, sì, è un po' più corta di una normale mantova, perché poi il resto ce l'ha in bobina, no? Sai, quello... quella... quel contenitore trasparente, no? Dove vedi la bobina in rame. Naturalmente, Daniele, è un'antenna dove non è che puoi caricare un kilowatt, quella è data, la bobina interna è sottile, quindi è data per 500 watt picco picco, cioè manda laterale presumo, picco picco a strozzo proprio, quindi continui, ne puoi dare 150, 170, ma quando sai già un generatore da 100, aumenti di 2 Santiago è un bijou. Quello che mi frega a me, diciamo, è che ho 50 metri di cavo. Guarda che la stessa antenna c'è anche Eugenio di Polo Torres, lui è soddisfatto, per l'uso che ne fa è soddisfatto. Poi se uno vuole avere un dB in più, vuole registrare quel dB, dB e mezzo in più, non Santiago, decibel, no. Su un Santiago sono 6 decibel, più o meno, poi dipende da che chiedi, ti dice 5, 6, insomma. Vabbè, io poi non volevo spendere tanto, diciamo che a Sassari o Daniele te la fanno pagare, per quel che vale te la fanno pagare anche troppo, 90 euro, però non devi ordinarla là fuori, non devi pagarti 15 euro di spedizione, se manca una vettina puoi andare alla GBC a troncargli la schiena, per dire, no? E comunque ti dico una cosa, questa antenna, la stessa antenna la fa la Sirio, ci si chiama GPE o GPS, tutte e due le fa, come c'è Energy Mezz'onda, Energy 580, c'è la Sirio GPE, GPS una mezz'onda, non 580, la mezz'onda non ha radiali, guadagna appena appena meno, però non è che la produce la Sirio, quelle sono antenne cinesi, si vede dalla scatola generica, quando ti arriva c'è scritto in tedesco OCH antenne, non mi chiedere come è scritto, che tradotto vuol dire antenna da base, sicuramente roba cinese, marcata Midland, marcata Sirio e chissà quante altre marche, magari in Polonia le marcano KPO, no, quelle marche che hanno loro. Vai Daniele. K, mi, la sto guardando proprio adesso. Ecco, quindi la GPE 5 ottavi è la gemella di quella della Venom. Sì, allora in più la Sirio ti dà delle specie di manicotti da mettere tra un giunto dello stilo e l'altro. Allora lo stilo, cioè gli elementi dello stilo si fissano uno nell'altro con una vite, una o due vite mi pare, non è a ghiere a stringere, sono due viti che passano per la parete del tubo, no? Per una parete. Solo che in realtà questi manicotti in plastica fanno poco e niente, cioè una volta che la piazzi per lasciarla su, li devi dare in ogni giuntura, in ogni, anche al bocchettone del TL, lo stringi bene, tra gli elementi dello stilo gli metti nastro vulcanizzante, bedo biazzardo, peso un po', bello passato aderente, e poi a ricoprire un nastro adesivo, in modo che lo tenga anche in forma finché non si stringe, capito Daniele? Così abbiamo fatto con Antonello Pomponio. E problemi non ne dà. Una considerazione solo che devo fare, naturalmente cambia in base, scusate se sto allungando troppo, posso? Sto finendo. Fai Marco. Allora, io ho seguito la tabella di taratura, ricordate l'installazione varia molto dall'altezza all'altezza, probabilmente l'altezza dal suolo che poi sarebbe il tetto, secondo me anche dal cavo, se il cavo, secondo me, se non è perfettamente schermato, influisce anche la lunghezza del cavo, me ne sono accorto. Insomma, io l'ho tarata per il canale 20 centrobanda, in realtà il centrobanda della mia è 20 o 30 canali sotto il canale 1, però problemi non ne dà, puoi andare anche sull'80, poi sotto puoi andare al 120 sotto, cioè non ne dà problemi, capito? Poi per usare 40 canali, figurati, addirittura per usare un canale come lo chiamiamo noi, ce l'è d'avanzo. Comunque provate anche con linea retta da 100, nessun problema. Non mi dà rientri di RF, funzia. Perché la mantova pesa 5 kg, è imponente la mantova, è proprio 7 metri pieni, è pesante, lì devi tirantare, in poche parole. Poi se la piazza è bassa, ripeto, niente tiranti, se poi però vuoi il palo a 6 metri, è lì e già comincia a complicarsi la cosa, allora anche leggera io l'avrei tirantata. Antonello, ci sei ancora? Privi il pomponio. Vabbè, Gianni, riprendi. Eia. Sì, grazie Marco lì, era giusto per Daniele che aveva necessità di alcune informazioni. Adesso l'altra marca non mi ricordo se era la Siria o la Sigma, vabbè, tu sei molto più informato di me. Comunque, dai, se devi continuare ti lascio il mic, dai. No, non c'è altro da dire, è un'antenna molto modesta, cioè alla fine tutti usavano mantova, però la mantova è impegnativa, devi tirantare, cioè. Poi Daniele, come tutte le cose purtroppo, a qualcuno gli è capitato l'esemplare che aveva, che ne so, la bobina difettata, tipo una saldatura fredda, quindi non faceva bene contatto, oppure si interrompeva la cortocircuitazione dell'antenna, capito? Perché è cortocircuitata contro la corrente statica, no? Però a qualcuno è capitato l'esemplare difettoso, però come tutte le cose, baracchini, microfoni, macchine. D'altronde questo problema della cortocircuitazione che spariva è successo anche a Giulio, e insomma, che sia mantova, che sia antenna da 13, devi trovare l'esemplare buono. A me è capitato quello funzionante. E comunque penso che scontrino la mano, il venditore in teoria dovrebbe cambiarla, non lo so. Io so che se la ordini da fuori, e quindi commercio elettronico, non hai modo di vederla anche al momento, in teoria dovrebbero sostituirla se ci sono problemi. Anzi, mi sa che sono più zecchi i negozianti locali, capito? Che ti dicono, ma io non te la posso cambiare, capito? Cominciano a fare storie. Invece per il commercio elettronico c'è proprio una legge che dice che, come le cose che compri da Amazon, siccome non le puoi vedere di tuo, non le puoi toccare con mano, no, vedere, le puoi richiedere un rimborso oppure la sostituzione quantomeno. Vabbè, riprendete, dai. Sì, già va bene, l'importante è l'antenna funzioni, poi che sia Oceano, che sia un'altra marca, va bene lo stesso. Avanti Daniele. Eia, no, perché mi è venuto il problema, lo sai qual è il cla? Di quell'energy, per far scavalcare i radialini poi, capito? Che se no devo metterli, adesso, i 2 metri di palo, inclinarla e farli scavalcare la mantovana. Non sono radialini, sono più di 1 metro quei radiali, sono grandi perché noi l'abbiamo montata ed è un casino. Sono grandi quei radiali, infatti te lo stavo per dire. Il montaggio lì con quei radiali non è facile, bisogna trovare una soluzione per tirarla poi su facendo scavalcare i radiali della mantova. Quei radiali lì devono stare almeno 1,5 metri, 2 metri dal piano del tetto. Ecco perché vi ho detto che secondo me conviene un altro tipo di antenna, non lo so. Infatti, se no, guardami, se devo andare sulla mezza onda che non c'ha radiali, là, tiri dritto e stai viaggiando, come questa. Non so, questo vi dà Marco qual è la differenza tra tutte e due, non so. Riprendi Marco, tu vai per Gianni. Ehi Daniele, se c'hai problemi di mantovana, perché quei radiali sono ben 1,30 m, e circa un ottavo d'onda di lunghezza ciascuno, no? Gira, ti conviene optare per la mezz'onda, che è identica, però non hai il peso dei radiali e non hai il peso della piastra di alluminio che tiene i radiali e relativi bulloni. Quindi anziché 2,5 kg, 2 kg la mezz'onda. forse per te sarebbe la cosa migliore, ma poi la differenza è minima, certo è più corta, 5 metri, meno di 5,50 per la storia che c'è sempre la bobina lì sotto, no? E quindi lo stile è appena più corto, ma il resto la mezz'onda la raggiungi con la lunghezza della bobina dentro. E costa anche meno, la mezz'onda costa forse quelle 10-15 euro in meno, vedi tu. E infatti, se, perché adesso domani però mi metto nuovo in moto, domani se fa bel tempo, non piove, vedo un po' di cercare di andare su quell'altro terrazzo e vedere cosa si può fare. Se mi dà un punto d'appoggio, se trovo quel punto d'appoggio, allora posso mettere qualunque cosa, non ho problemi, capito? 5 ottavi, mezz'onda, quello che voglio. Perché adesso come adesso, io quando sollevo il telescopico, l'antenna passa dritta dritta e scavalca la mantovana, capito? Eia. Naturalmente, Daniele, una cosa che non ti ho detto, quell'antenna si tara dalla punta, cioè in punta ha, come erano le vecchie veicolari, uno stub di taratura, no? Una vitina esagonale, no? Che tiene questo, l'ultima parte dell'antenna che è sottile, no? Proprio uno stilino. E quindi io ho seguito l'istruzione, l'abbiamo piazzata, serrato tutto, ma non avevo intenzione di rimetterla giù, se risuona, non capita, ma se dovesse risuonare talmente male, troppo in alto, troppo in basso, bisogna riscendere l'antenna, modificare la taratura, rimetterla su, fare le prove. Io ho detto, dove risuona, risuona. Ma poi sul 40 c'ho 1,1 min, non è che c'ho, diciamo che raggiungi proprio uno, sta 1, 20 canali sotto l'1 min, capito? Nel mio caso, naturalmente possono influire muri vicini, oggetti metallici, ma già lo sai, no, Daniele, a voglia. Capagava. Perché non andavano bene poi le tarature di fabbrica, dalle istruzioni? Nel mio caso ho controllato tutti i canali, no? Sono andato molto in alto, molto in basso. Ti ho detto, il centrobanda era 20 canali sotto l'1, o addirittura 30 canali sotto l'1. Adesso la frequenza, cosa era, 20 canali sotto l'1 più o meno? Vabbè, non è un problema a me, perché tanto, io ci andavo, alla fine ti tiene 120 canali da una parte a 120 dall'altra, ci fai 240 canali. A parte che da 28 MHz in poi è banda amatoriale, quindi lì off limit, cioè se devi fare DX ce n'è d'avanzo, Daniele. Ce n'è d'avanzo, c'è la tabella di taratura, comunque te la danno loro, te la danno loro. Che loro non so con quale criterio la compilino questa tabella di taratura. Naturalmente ogni installazione è diversa, capito? Anzi le verticali ne risentono meno, ma se c'è un dipolo orizzontale, in base all'altezza cambia tutto, Vabbè, ma qua stiamo parlando di verticali. Ma Antonello ha chiuso? Eia, vabbè dai, Gianni vai tu. Ok, grazie da parte mia per le informazioni. Interessante. Quindi meglio sfogliare il libro il libro delle informazioni sul canale piuttosto che andare prima su internet. Vabbè, comunque poi già giustamente ci si muove in base a quello che deciderà Daniele, poi giustamente, vabbè, voi ne sapete sicuramente molto più di me. Avanti Claudio, se ci sei. Mi sa che si è spostato Claudio. Va bene. Adesso vediamo come organizzarmi, che c'ho questo problema, perché vedi qua, ho trovato l'assilio GPE 5 ottavi e c'è radiali, questi sono enormi, sono più di un metro, sono altro che radialini, come dalla figura che ho qua, da quella della foto, nella foto sembrano piccoli, ma poi questa piazzata che ho qua, l'immagine, sono cavolo enormi. Ehi, Daniele, ma probabile che tu ti trovi anche meglio con la Venom, mi. Con i radiali corti, magari tirano meno problemi, solo che, boh. Io radiali così piccoli, sono a 5 ottavi, non li ho mai visti. Già i miei sono 3, ho detto, ma tutte le antenne della storia, Firenze 2 e Mantova avevano 4 radiali, minimo. Corto, non sarà un po' scarso il piano di massa, boh. Chi lo sa, lì ci vuole. Neri o neri, quello che per radiatore che scrive i trattati sulle antenne, e lui che ne sa. Dai, riprendete, QRX per me, sto mangiando, ciao. Veia, buona carica Marco, avanti, chi vuole entrare? Io entro dopo, dai, che sto facendo cosa, mi sono col baracchino, già mi sentite lo stesso. Sentiamo dopo, che devo vedere due cosette, beh. Riprendi Gianni. Ok, cambiato baracchino. Vai, cambiato radio. Ok Marco, grazie per le info. Vabbè, se poi riguardo al piano di cui stavi parlando, se visto l'antennino che ho io di macchina, se mi puoi dare qualche consiglio per eventualmente, momentaneamente, per cercare di migliorare le prestazioni, se hai qualche dritta da darmi è ben accetta. Gianni, ossia cosa facciamo? 45 minuti, proviamo la boomerang e vediamo, la piazziamo e facciamo le prove. Se è più basso la leviamo e rimetti quella che c'è adesso. E cosa vuoi che ti dica? Provare si può provare, non è un problema, Daniele, quindi voglio dire, cioè tutto è fattibile, per carità, va benissimo, no, più che altro ero curioso di sapere da Marcolino se vuole intervenire per quest'ultima info, così riguardo all'antenna che ho veicolare io, se può darmi qualche dritta in più, ma a prescindere da boomerang e altre antenne, se ne ha voglia, siamo qua. Già, con la veicolare non è che puoi fare molto, a meno che non fai una finta cappotta, trovi una bella piastra di alluminio, di acciaio sottile da 2 metri per 2, e gli fai un bel piano riflettente, e allora forse rende di più, ma non, per le veicolari non c'è il tanto, dai. KK, ok, grazie, sì, immaginavo che sì, ci dovesse mettere una struttura leggera, ma non ne vale la pena, come dici tu, hai ragione. Va bene, giusto per saperlo, a Sabiglio, amico, come si dice a Sassari. Avanti Daniele. Ehi, intanto c'era solamente, l'avevi già piazzata quell'antenna, è un'antenna che fa uno stiro con un radialino, bisogna affittare i due bulloncini al palo, la staffetta al palo, e se attacchi il PL stai viaggiando. Ehi, quanto è grande Daniele quell'antenna? Wow, si arriva in altezza 2 metri, anche troppo, neanche. Ho capito, il radialino invece è quello che c'ha spiovente? Quanto sarà quello? Un metro e qualcosa sarà. Ho capito, sì, già la conosco la boomerang, la conosco. Sì, vabbè, cosa vuoi che ti dica? Eventualmente si potrebbe fare qualche esperimento, quindi problemi da parte mia non ce ne sono. E io che ce l'avevo nel balcone, diciamo, quando era tutto provvisorio, e quindi usciva a basso, capito? Però non ho avuto volo, volevo provare al posto di questa. No, ho detto, male che va, la metto, continuo con la bumbola, la sollevo e la piazzo. Poi invece ne è salito lo schizzo, ho detto, vabbè, non frega niente. Piazzo la ringo, ho trovato le istruzioni di come iniziare la tarattura, diciamo, un punto di accordo, da dove partire. L'ho fatta, ho visto che sta andando ed è a posto. C'ho 1 e 1 di stazionari, modulati 1 e 2 quasi, ma neanche ci arrivo. È vista, ed è a posto. Stavo controllando quando è l'altro giorno, stavo facendo un'idea stavo guardando un po' più o meno come si interava quel tipo di antenna, spostando praticamente adesso non mi viene il termine, spostando praticamente il contatto, facendolo scorrere in quella sorta di radialino circolare che ha la base, così è. C'è quella bobina lì. Quella bobina, me l'hanno data che c'ha un morsetto, quelli a coccodrillo. In base a quello lo spozzi, ma di poco e ti trovi l'accordatura dell'antenna. Però io non avendo istruzioni, non avendola mai piazzata, sono stato lì col metro cercando le misure, meno male c'avevo già i segni da come era piazzata, quindi ho seguito un po' quelle misure, perché su... Aspetta un secondo, c'è la bassa. Ok. Lì d'accordo, non c'è problema quello. Chi c'è rimasto qua? Ciao Antonè, Daniele è in bassa, Claudio si è spostato un attimino a fare roba, Marcolino è in QRX che sta mangiando, sta caricando. E niente, per il momento siamo rimasti in due. Quindi figurati tu. Andare. Io invece sono in due frequenze differenti, la verità, comunque sia. Sono in Spagna e in Italia, quindi a un certo punto mi devo dividere in due. Hai capito? Senti un po'. Massimo risponde. Ascolta, cosa mi dice della boomerang? No, va bene, comunque sia, va bene. Quello che è. Se c'è un certo punto per il provvisore va bene, se no lascia perdere. Ce la butti in pratica, capito? Vabbè, ma è sempre meglio di un'antenna veicolare, se non sbaglio, no? Certo. Certo che è così. Perché io sto uscendo con una vecchia antenna veicolare da 1,80 m, quindi se dovessi mettere una boomerang adesso sono sicuro che sicuramente il segnale aumenta. Beh, a voglia. Sono sicuro che piglio un caricatore, c'è un caricatore. È del coso io qua adesso. Ne potete parlare in Spagna, 2 minuti. Eia. Ah sì, ci siamo. A posto? Sì, la verità sì. Aspetta, vediamo se mi rispondono. Che altro, eh? 2 secondi. Allora, mi scucci? Allo? Non c'è nessuno, siamo a posto. Ancora vicino, traslendi. Te qua a capo sul telefono. Stacca quel cazzo di cesso che c'è, stai usando adesso cazzo. Mamma mia, un migliorante quello, mamma mia. Che poi disturbi cazzo i televisori, cose del genere, no? Non fare maniaco, non fare maniaco, diceva quello. Ha attaccato minimo il pelo migliorante. Questo era un 87 con il microfono normale, non è amplificato. E ce l'ho sempre pronto quando lo devo usare con l'eco, siccome ecco non c'è. È chiuso e questo è il microfono normale, perciò a stare bigliato un kit UGB-Talk non trattare quanto me, mamma mia raga, lo sai che non mi piacciono queste cose a me, lascia perdere, ascolta, ma non te ne rapportate col cap che non va bene, io non sono qua e sto facendo una cosa al computer e mi viene meglio con questo baracchino che sull'altro lato, perché 440 è troppo centrale e quindi è per quello che ho acceso questo. Ho capito, qual è il problema, scusa. non cambia niente. Tranquillo, tranquillo. No, no, questo già, già va bene. Io non sono un baracchino, no. Ok, sentiamo dopo, riprendi con Gianni, già vi sto ascoltando, lei. Benemeda, Benemeda, vediamo se Daniele è tornato. Daniele è tornato, sì. Hola, hola, Coca-Cola. Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Che si dice, che si dice? Mi è un po' indaffarato, dai, diciamo che ho appena acceso. Benemeda, Benemeda. Stavamo... ci stavamo rinfrescando la memoria, cioè la memoria. Stiamo ripassando un po' di cose su varie antenne, piccole, medio piccole e medie, e quindi si è riaffacciato Marcolino, adesso si sta caricando. Daniele si è spostato a fare una passa, e c'è Antonello, Claudio, lo stesso in QRX che è al PC. E niente, avanti Massimiliano. Positivo, positivo, saluto a tutti, buonasera. E io mi stavo facendo un po' di PL nuovi. Per abbassare le stazionarie? Sì, non solo, va, non solo, ma ho messo due PL nuovi, ma non è cambiato. Ma va bene, va, uno e due si può modulare. Bene, bene, bene. Daniele, ci sei? Ancora al telefono, va. Antonè? Aio, dai, vieni avanti. Sì, hola, hola. Hola, hola, adelante. No, va bene, visto. Hola, buona tarde. Buona tarde, aquí estación Italia, Antonello, que está hablando. No está problema, aquí un momentito de QRX, esto dos minutos de QRX, por favor, dos minutos. Eccomi! Io non voglio il tuo CB-TAC, cosa cazzo è? Guarda la futta, Antonio, ciao Daniele. Ciao, buonasera anche a te. Vabbè, è bellino comunque, la verità si dica. Oh, Massimiliano! Parlami! Sì, mi ha chiamato il dottore. Tutto a posto, ci vuole solamente una scheda beep. Addirittura, perché quella lì è bruciata? Cappa, ha provato tutto e quella sta dando problemi, si incanta e non torna, non molla più la portante. Adesso me ne devo procurare una scheda beep. E lui non le ha? No, niente. Guarda su internet qualcosina. Cappa, perché è finito? È finito, soltanto che mi sta facendo come accendo a parte tutto diretto e adesso. Ciao Massimiliano, ciao Cla, buonasera, dai. Va bene, va bene, adesso la spinge. Cavolo, le ha aumentato di 10 watt, adesso è 20 watt. E da quanto però, da quanto parte? Da 2, da 3? Partiva da 3 watt, 2 watt e mezzo, dai, adesso mi ha detto solamente il massimo del watt che spinge da 10 che ne dava, come prima è riuscito a portarlo a 20 watt. Quindi diciamo che con 2 watt e mezzo arriva a 20 modulati, là. K. E così era anche prima. Già sta procedendo bene, è finito lì, manca solamente questo cacchio di scheda beep. Mi ha chiamato lì, adesso. E beh, o lo lasci senza beep? Oppure vedo la scheda beep. Guardala su internet, cosa avviene? La scheda beep, sì. Ma credo che venga una cazzata comunque, capito? Eia. Va bene ragazzi, dai, ne approfitto che vi saluto che devo andare. Ci sentiamo adesso domani, se coincide. Ciao Daniele, buona serata e buona continuazione. Avanti Antonio. Scusate, vabbè, entro io. Per Daniele, guarda che le ho viste su eBay le schedine Roger Beep. E non ho... sono un prezzo abbastanza abbordabile, quindi controlla se vuoi su eBay per dare un'occhiata, ci sono, si trova a buon prezzo. 20 euro. euro. K. 12 euro, 10 euro, guarda questa qua, 10 euro. Basta che faccia un bip, giusto per dire che c'è il bip, se no me ne frega niente, resta senza bip. Ma come vuoi, allora io sto guardando qui su, su eBay, Daniel. Allora, esce, vedete? Allora, 48, scheda, bomba, 10,90 euro, più 5,90 di spedizione, quindi sarebbero 16 euro, to. E si conferma, adesso me le cerco anch'io, dai, e vedo un po', perché poi devo spedire a lui. Boh, non lo so, magari il giorno che gliela porti glielo dici, vai un po' prima, te la attacca, tanto sono due fili, mi da collegare lì, capito? Te la fai collegare e poi la provi e ti innandi. Cappa, e si può fare anche così. Va bene ragazzi, dai, riprendetevela. Io chiudo, sono già in ritardo. Sentiamo domani. Ciao ciao. Ciao ciao Daniel. E beh, là. Ora, Coca-Cola. Maledizione. Ora. Va bene che bene, dai, oh. Avanti Gianni, Lublo, Fetta. Ciao Daniel, ci sentiamo alle prossime. Buon proseguimento di serata. Claudio sta smanettando al computer. Claudio, ci sei? No, sto mangiando una cosetta, sto guardando la partita. Vagna. Gatta. Insomma, ci sono partite a tutto andare, ragazzi. Il suo pallone è sempre viaggelli, E poi sono i pigliari, l'abbiamo fatto viaggiare pure di notte io. Vabbè, noi stamattina non ci siamo sentiti, ma si vede per quel microfono. Stamattina c'avevo un po' di impegno qua a casa, qua. Però ti avessi fatto una sgaloppata qui, veloce. Non lo so, se volete, domani mattina, non lo so, volete voi. Soldi ne hai appresso Gianni? Per un caffè, sì? Sì, quelli già ci sono. Quelli ci sono, no problem. No, ma se ne dà, non lo so. Ci aggiorniamo domani mattina, non lo so se posso scendere. Domattina sì, però no, pensavo eri impegnato, non ti ho chiamato. Domattina non so se è bella giornata, non lo so, vediamo. Ci aggiorniamo domani mattina. Uno deve salire a Sassari. Oggi no? No, negativo. Niente a Sassari oggi. E vabbè, mi giro il numero di Gianni, dai, al limite. O ci troviamo a metà strada, boh, non so, salgo, io lo porto, vediamo, dai. Di cosa le porti? Cosa? Ho detto che a piedi lui, cosa le porti? Cosa a metà strada? Vabbè, se sei a piedi cosa rivale? Ti devi, se sali tu a portarglielo, lui è lì nella piazza della stazione. Ti fermi lì e lui viene, come ho fatto io l'altra volta. Capito? Non arrabattatevi troppo ragazzi, con calma, fate con calma, tranquilli. Aspetta un secondo. Ehi, va bene. Ok, dai, datemi 5 minuti. Non ne ho molta voglia di parlare oggi, già forse te ne sei accorto. C'ho un mal di testa, questo cazzo di tempo mi sta uccidendo a me, io soffro di cervicale, c'ho un mal di testa allucinante, ho preso già una pastiglia a pranzo, non mi è passata, per quello stavo mangiando un pezzo di pane, niente di particolare. Sì, me ne sono accorto, avevo questa sensazione che non sei in pienissima forma, me ne sono accorto. No, poi quando c'è un mal di testa mi prende male, perché insomma è tutto il collo, sotto gli occhi, non posso portare gli occhiali, anche i messaggi mi dà fastidio a leggere, mi viene capogiro, capite? Per quello che no, non ne ho voglia. Vabbè dai, ma già sono qua, comunque vi ascolto. Ricordati che devi morire, ricordati che devi morire. Vabbè, genio. Ciao Super Claudio, ciao anche a te, Luca Fei. Parlare prestazione Paolo non posso, mi stanno già troppo addosso, questi sono le vendetta, tutto è parte in rabbia e quello che sto mostrando nel fondo, l'esigenza che è quella. Ciao Luca Fei, come mai stai uscendo così qua? Cosa stai usando? Il barracchino. Perché non mi senti? Sì che ti sento, però molto meglio, proprio prepotente la sua assoluta modulazione, oggi no. Beh, questo è il microfono normale. Va bene, dai, già sono qua, vi sto ascoltando. Riprendi Gianni, mi è entrato anche Eugenio, dai, ci sentiamo dopo. Ciao Eugenio, ciao carissimo, ben sentito, ben rientrato. Bello pimpante come sempre, bene mela, mi fa piacere. E allora, che si dice a Pocciodorra? Nuda, tutti giù sinchi di cuoio, Gio. Chiusa la mano adesso, doccia. Adesso sto un po' d'acchino fuori, divano. Anzi no, Muglieri mi stava preparando gli spaghetti con i gamberoni. Cosa rete al Zoo? Sì, buona rete, Zoo. Quindi, tra un po' ci cena e niente, dai. Buona rete, Zoo. Roba ricchita, come ti dici, roba sopraffina. Bene mela, bene mela. Hai capito? Come si tratta il nostro genio, ragazzi? Se tu roba sul gelato, dammi una cosa, ciao G. Ciao Massi, tu sì. Ah, siamo in conosce allora, sì. Ciao, Budozzo. Ehi, è roba congelata, pensala così tu. E cosa è? No, è roba congelata. Questi giorni non sono usciti, per scherzo c'era male brutto. Ehi, hai ragione tu. Le cose è piena di ammonia, cappucci che. Sì, infatti ce li sto mancando. Io, ma i mezzi li vogliamo fare, che non li mangio, né freschi né congelati, ma io mi piace le gambe. Ah, non ti piace i gamberoni? No, oltre che non mi piacciono, ma non le posso neanche mangiare, capito? Mi fanno andare all'ospedale. Sei allergico ai crostacei? Ma è solo i gamberoni, quasi compreso, bagosa. Quando mangio quella roba lì mi viene, come si chiama, il... Non so che la filante, come si gonfia l'ugola. Lei ha allergia, lei cosa c'è, ma non si è il sonno. Come dicesse, ce l'ha, ma meglio così ne rimangono più per noi. Sì, strada, sai cosa. Gappa, va bene, che bene. Bene, mi ascolti, io do così. Sì, alla grande. Ciucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Questo è Pomponio. Dimmi tutto, sono qua, sono da qui e gli spagnoli a me faccio, capito? E a me che sei in compagnia mia, compagnia di Bulldozzo, nonché Massimo, e poi c'è il grande e solo unico Gianni Rubloffetta, aria bascia, vai! Ascolta, mi hai fatto ricordare una cosa. Io all'ultimo matrimonio a cui ho partecipato, vabbè, stavo mettendo musica per gli sposi e per gli ospiti, ho avuto una brutta disavventura. Adesso non so se era colpa dei gamberoni che non erano insomma in perfette condizioni, perché dopo un giorno, ma neanche, praticamente praticamente ero pieno di placche, non so cosa è successo, mai in vita mia mi è successo, le ho sempre mangiate e non mi hanno fatto mai niente, però quella volta lì sono stato veramente male. È probabile, queste allergie, intolleranze, vabbè, a me mi è venuta l'anno scorso, al lattosio, se no posso più mangiare la pizza con la mozzarella e queste cose qua, capito? Un casino. Ognuno le cose sue. Imparate, insomma. Tutto placche. E non mi era mai successo. La prima cosa che ho pensato è sta a vedere che i gamberoni non erano. Non erano in buone condizioni, non lo so, adesso ti ripeto, se questa cosa sopraggiunga così all'improvviso, non lo so. Probabile, la roba rimane, bisogna starci molto attenti. Buongiorno, ma vi siete conosciuti con Profetta? No, non c'è stata l'occasione. Avanti, Ege, avanti. Io l'ho conosciuto ieri, 5 minuti ci siamo visti. Vabbè, bello è. Peloso è. Ehi, ci può tombare. No, insomma, qual è il problema? Crocro, ma ricamano i limiti se mi chiedi. Peloso, non c'è problema. stiamo cercando azioni per fare pelo e contropelo. Bello è Pomponio, non venuto da Alfa, io sono innamorato di Pomponio. Ah, io ti ringrazio, guarda, purtroppo sono innamorato degli spagnoli, la verità. E quando sono entrato in Civiltà, la verità, con le donne è pieno. Poi non lo so, gli altri possono passare quello che vogliono. Io ci parlo tutti i giorni, mi tratto come se fosse un fratello, un cugino, quello che è. Allora, sta di gusto, che sono Civiltà. Meglio di niente, la verità, altro di gusto. Sono tutti i CB, tutti sono lì, e dove il cazzo devo trovare secondo te i CB? Oramai baracchino, sei notato bene, se ti fai i calcoli, guarda, non c'è più nessuno. Quindi a un certo punto devi riservare, sono seduti là e basta. Oh, io ho molto lottato sull'11, sui da 11, ma non mi piace, è più per il baracchino. Ascolta, fai la cosa, vai nella Spagna 7 e parli tranquillamente con chi cavolo lo vuoi tu. Ci sono italiani, sono ragazze spagnole e ti diverti. Ma cosa me la appunti? A me piace il baracchino, non mi piace questa applicazione della Midland, ma l'ha fatta perché per farti comprare il dual mic e basta. Ehi, domani che ce l'ho io in mezzo legame, già lo sai anche tu, che cazzo è buon grazie di differenza c'è, scusa, a un certo punto. A me sta bene, cioè, ho intanto a parlare così, se no uso PMR, già lo sai anche tu, l'LPD, quello che è, e quindi non è che deve essere portato una cosa unica, io uso di tutto, di più, hai capito? Ho capito, ora c'è tra le gambe, tu al mai. Tu usavi il microfono, quindi la terza gamba va bene lo stesso lì, a un certo punto. Ma tu al massimo sei una bella capsula da fare a gamba. Profilo. La capsula, non mi funziona la capsula a me. Io ho quello che c'ha lo scone, capito? C'ha la pompetta e quindi allunga. Il filo c'ha oggi. Il filo, come lo vuoi chiamare, c'è la pompetta, mi non ho capito, e tu, io schiaccio, pompo e vado avanti, e c'ho anche l'oggettina addirittura, di fronte a casa mia, quindi non c'è bisogno di andare a casa a fare il chilometro di distanza, no, c'ho di fronte. Quindi tu pompi e sei un pomponio, così? Appunto, c'ho l'oggettina e c'ho di fronte, faccio altro che andare a casa mia, di fronte a casa, vado e spurgo, come si dice, no? Compiti a un certo punto. Scusa, lo sai, a fanculo a te quanto sei, cazzo. Eia, sì, mi stavo facendo una sigaretta, Eugè, mi stavo rullando una zizza, volevo chiederti una cosa, adesso mi è passato in mente, magari al prossimo giro il microfono già me lo ricordo, avanti Massimilia. Eia, Eugè, il 2009 sto usando, vero? Ma sto usando? Oh, il 2009 sto usando. Ah, 2009 ce l'ho sempre più grosso. Io quello che mi ha dato tu, sempre solo, non ho mai toccato niente, anzi forse mi sta passando la batteria e il microfono, però non ho mai toccato niente. L'Uranus, l'MP5, sempre fermo lì. Bella radio. Ma si mi dia. Parami. Ascolta, sai che c'ho l'87 io, quindi in pratica da vendere, quindi se qualcuno è interessato per fargli fare quella modifica e cosa del genere, io sto vendendo 100 euro, normale così com'è, hai capito? Originale, se vuole qualcuno viene se la prende, tanto non le faccio niente io. Guarda, ti do l'Uranus, mi dai 200 euro in più. E io volevo dire, ma così, c'è qualche banda io, cosa mi la fotti a me? E sto facendo per quel motivo lì, perché non faccio niente, e mi spari una cosa del genere. Ma allora non si offende meglio. Che apparato è, maestro? L'A87 della Midland. L'A87 della Midland. Con, già pronto in pratica da poter metterci all'interno la scheda, ecco, puoi girare sua e basta, tutto lì, non ti devo dire altro, perché è originale, l'ho modificato 18 watt quello che è e basta, non ho fatto altro, basta. Ascolta, ascolta, ma il camovello è però quello che c'ha i pulsantini tondi o le lefettine quelle piatte? In che senso pulsantini tondi? Scusami, ma quelli che stai dicendo... che sono in pratica e se vuoi aprire quello che è, quelli sono tondi per forza, casa, scusami, dove è si piatte a un certo punto? Quelli sono così. No, quelli non sono così. Quelli non sono così, perché se c'hai quelli dove c'è anche il beep, dove c'è scritto ecco, se sono tondi, quello è un modello molto vecchio. Io ho l'altro modello dell'87, quello che c'ha proprio le levettine piatte. No, io ho quello invece tondo, il discorso è quello lì. C'è il filo già pronto per l'ecco e basta. Non devi fare altro che agganciarli. Accesso l'esperimento a ecco e basta. Sì, perché quello nasce con l'eco tipo un reverbero, là. Quando è originale, sicuramente è stato tolto dall'interno. E però è un po' vecchiotta come tipo di radio quello. Già che l'87, quello con le fettine piatte, già è vecchio lui. Figurati, quello qualcosa tondo ancora più vecchio ancora. Vabbè, comunque è una cifra abbastanza abbordabile. Si può chiedere, completo di tutto, cosa c'ha? Staffa, cavo, microfono, cosa c'ha? La staffa e cavo, cavo e microfono, basta, 100 euro. Vabbè, si può chiedere. Io il mio 3009 non lo darò mai, il superstar, cosa ne devo avere il barattino? Vero, visto hai, ce l'ho io, ce l'ho il 2009, marcato, omologato, figurati tu, quanto mi dai per averlo, per farti la concessione, e più c'ho anche addirittura il frontalino del 2009 originale, perché quello che ci ho messo io è tornato qua 2005, cioè 34S, no 4005, 34S, figurati tu, quanto mi dovresti dare? Ma se mi dà il 2009, è perfetto, il furgone esce da una miglia, perfetto, no, non essendo più soldi di baracchini, io c'ho tutto, sono a posto. Io sto usando quello, non hai capito ancora se sono quello. Sto usando il Superstar 2009, con il frontalino del tornato 4005 e dopodiché ho messo quello 34S, il frontalino. Hai capito? Ehi, ehi, è sempre il 2009. Avanti Gianni. Ehi, quindi Eugenio, quanti baracchini vai tu? Funzionanti e che usi, quanti sono? Allora io ne ho tre, uno quello che sto usando adesso, che è un signor apparato, il secondo è il furgone, il 3009 che è il furgone, che è un signor apparato, e quello in camper, bellissimo, che fa una meraviglia, eccezionale, il Midland, non mi ricordo quale book, che me l'ha dato Marco, è perfetto. Bene, bene, quindi sei assolutamente al completo, come ti si dice. Quindi tre ne hai, bene meda, bene, bene, bene meda, anche sul camper. L'antenna dove l'hai messa, Eugen, sul camper? Ce l'ho sul... come si può chiamare? Sul montante dove c'è il palatetta davanti, il montante lì che supera anche la cellula ed esce una meraviglia. faccio chiudere il parafango. No, l'ho fatta alta, l'ho messa ancora più alta. Adesso sì che va bene. Va benissimo. Perché il radiameglio, no? Il radiameglio, essendo più su della cellula, il radiameglio. Quindi un secondo vado a fare la spesa. Poi torno subito, va. Comunque sia. Perché gli serve quell'apparato, costa 100 euro. Perché lo vuole, con il microfono suo lo gira normale, quindi siamo a posto. Ok. Ci vediamo dopo, va. Datemi 4 ore e 20 minuti, faranno la spesa e poi sto arrivando. E oggi guarda questo che abbiamo mandato, c'è un signor apparato. Mi ha mandato la foto dell'apparato, come se ne uscirà. KK, uia, mamma mia, questo. Oggi tutti i fiacchi che è. Va bene, il dottor Manzoni in passendi, lui a mano. Uia. Sì. Ecco, si sente dalla tonalità della voce che, insomma, anche Claudio lo stesso dice che non sta bene. Sì, vabbè, ma lui è già un po' anziano, io sono giovane, capito? Impatto è sempre impatto, Mamma mia, cazzo. Questo è bello, questo mi piace pure a me, ma mi piace solo per una cosa, perché al frequenzimetro e ai canali, invece il mio il frequenzimetro è basta, solo per quello. Comunque ve la farà. Vabbè, se vuoi fare il cambio con questo non c'è problema. Vabbè, non te lo alzo sotto per farti vedere cosa c'ha, Capito? Sotto questo c'ha un mostro, capito? Incorporato. È bello. Mi piacerebbe averlo solo perché c'ha i canali, c'ha la frequenza di mettere il canale, ma alla fine ci ho preso la mano con questo qua, non è neanche più un problema. No, ma quello basta andare con le frecce sotto il coso e va bene lo stesso. Quello lì è la sintonia continua, capito? Cosa fa? Fino a 30 arriva, no? O 29, quanto fa? Fino a 30 arriva, dandelo a 30. E quello è un bel apparato, mica, se non è brutto, quello lì è un bel apparato. Ma questo va benissimo, perfetto. Gappa, ti buschi un aiutino lì da casa. A volte può servire, quando serve la accendi, quando non ti serve la si spetta. Anche di quelli a 220. No, deve riuscire a far uscire meglio a costo. Ah già, a costo zero. Ci stiamo lavorando, compa, ci stiamo lavorando, tranquillo. un'antenna gli serve, buona, capito. Poi basterebbe solo una Zampredi, quelle piccoline, quella che apre buio tanti anni fa. E lascia la grande, già lo sento così, va bene, arriva a Santiago Zero, se mi aumenta il QRM lo scappa. Però. Guarda, Daniele si è offerto di prestarmi a livello proprio sperimentale una boomerang, la piazziamo e vediamo un po', sicuramente va meglio di questa. Ma è sempre un quarto d'onda quella, capito? Non è la 5 ottavi, però sempre meglio di un'antenna di macchia. E oggi tu non ce l'avevi la Grand Prix, quella grande avevi tu o la piccola? No, io avevo la piccola, quella 80-50 era, un metro e mezzo. Ma mi si era troncata, di la luna fatta. Già l'aveva velata già, non figurati. Quella che avevi preso la cosa, già mi lamento, va. Me la ricordo quell'antenna. No, l'ho fatta una volta, alla difficile l'avevo preso. Ma è Costanzo, non te l'avevo dato una, mi pare, a te l'avevo dato, buh, non lo ricordo. Chi? Costanzo, sto sbagliando, mi sto, buh. No, stai sbagliando, perché io le antenne le ho sempre comprate nuove. Non lo conosco nemmeno questo Costanzo. Ehi, lo conosci, quello che trasporta le macchine. Costanzo, no, non me ne avevo mai dato a te. Mai. Ho un amico che mi ha promesso, ce l'ha, nuova, la Mazda fa curvo, devo andare solo a prenderla, mai piazzata, comprata mai piazzata. Detto, non la faccio nulla, te la do, però ancora non si dice. Sì, ma questa storia è già da un po' di anni fa, che me l'hai detto. Lo so, ma siccome non ci vediamo spesso, molte volte quando ci vediamo me ne dimentico. Perché se metti un'altra va turbo lì la cosa è un poco diversa. Lo so, sto aspettando, infatti forse lo vedo domani. Vabbè, se c'è il numero di telefono lo puoi chiamare, no? E puoi dire portarti l'antenna, E va bene, capito, così tu ti piazzi con l'antenna e... Ma c'è cioè, una Energy tu adesso mi pare, no? Sì, ho la Energy 50. Quando mi dà quella là e piatto quella là, questa la do a Gianni. Quella andrebbe bene l'antenna, vedi, è leggera, leggera. E funziona bene anche come antenna, ho visto quella, No, ma funziona benissimo questa antenna, a Puglia. È che per la posizione dove sei tu ce l'hai anche bassa, ce l'hai. Se la sollevi un paio di metri, non dico molto, un paio di metri, e ci piazzi davanti al turbo, qua mi arrivi 9,20 minimo. Appunto, ce l'ho anche bassa, perché adesso quanti anni può? A 9 c'è tipo? Sì, sei 9 pieno. E Gianni lo stesso qua è 9, vabbè io sono più o meno a metà strada tra uno e l'altro. Ah, addirittura, no che ti arriva già. Cazzo, qua non mi muovo manco il rotetto. Ci voleva... adesso io ho un microfono amplificato. E ci sarebbe voluto uno di quei 747, qualche aiutino così, giusto per avere una trentina di watt e 40. Guarda, adesso se Daniele mi presta la boomerang, in questi giorni ci tolgono la veicolare e ci metto la boomerang, sono sicuro che migliora di brutto. Guarda già, tu mi arrivi meno, guarda, non arrivi a 9, ma sei lì, ci vuole un pelo a toccare i 9. E Eugenio con l'antenna grande mi fa 9. Quindi tu sei più o meno a metà strada e lui lo stesso, dai, io sono in mezzo. Però sicuramente tra di noi c'è un buon varco, dai, perché io Sassari da qui lo vedo tutto. Capito? Invece lui rimane più su un buco, lì. Caffa. Vabbè, io ho tutta la visuale, Goffo della Sinara, Pocciutorra, insomma, di tutto e di più, quindi lo spazio è aperto da questa parte. Meno male, perché se no non avevi inteso di manca Eugenio, che... Gianni, se si mette la boomerang nella posizione in cui è lui, è una posizione anche alta, cosa vede? Però è sempre un quarto d'onda con l'antenna, capito? Una 5/8 è meglio, capito, Eugenio? Vabbè, però per iniziare va bene. A voglia va bene. Ti metto un 747 lì, ti buschi si busca una radiolina che c'ha l'FM, le bande, e arrivi tu, a voglia. Sai quanto si diverte, adesso inizia la propagazione, ti puoi spostare nel 45, bande laterali e bande varie. C'è una bella radio così, inizia già, che si diverte anche un po' di più, ecco. Ma lui ha un baracchinetto 40 cara normale, vabbè, piano piano ci arriverà, se le piace continua, piano piano ci arriverà. Guarda, adesso vediamo, adesso sono curioso di sperimentare questa boomerang e poi vediamo un po' cosa succede, dai. Ma tu ce l'hai, c'hai il posto dove metterla, vero già? Sì, io sono tranquillo da quel punto di vista, adesso l'antennino, l'antenna di macchina che ho l'ho messa in punta su un tubo dove c'è attaccata l'antenna TV e praticamente il tubo sarà altro 2-3 metri e l'antenna l'ho messa in punta, quindi è libera, è assolutamente libera intorno. Quindi vedi bene che mi sembra che la boomerang sia alta intorno ai 4-5 metri lo stesso, No, c'è quella piccola, no, quella piccola è alta 1,80 metro, si fa puro. No, ma non è... tu stai dicendo la Storm, mi pare. La boomerang è quella che è tutta in alluminio, che non c'ha radiali, c'ha la spirale come la Mantova. E mi sembra sia 4-5 metri, una cosa del genere. No, la boomerang è quella che ha un radiale, ma non c'è 4 metri. Ah, scusa, io mi stavo confondendo con la Ringo, cazzo. Ma affannato, c'è ragione. E quella è un radiale, sì, è vero. E quanto è grande questa antenna? Guarda, mi stava dicendo Daniele che siamo intorno ai 2 metri circa, 1,80 a 2 metri circa, con un radialino obliquo. Ho capito. Vabbè, sempre un antennino è quello, là. Vabbè, meglio di chissà sicuramente. Sempre meglio quella di quella della macchina, E se metto la 5000 turbo lì è meglio della boomerang. Piano piano ci arriverà, piano piano. Positivo il capo a brioscia. Non c'è più dove la guardo. No, adesso sono più vicino, adesso sono alta là. Adesso vediamo questa settimana. Mi piacerà qualcosa anche lì, là. Ci ci metto l'antenna, ci metto la radio, poi vediamo se metterci un aiuto. Ma dove le appaga? Sì. Ma via, se ne sente gente? Perché le autisti nel suo cicoce sono più. E io si sente qualcosa, lì è una buona zona, lì. Lì è molto alto, è bello aperto, verso Urbia, verso Cagliari, Porto Torres. È bella, una bella zona quella lì, guardala. Mi ha sentito due minuti, un attimo. Già. No, poi sono anche in alto, ho capito Gianni, Eugè. Sono molto in alto io, vedo tutto, la punta di Porto Torres. No, abbiamo già fatto queste prove. Cioè da dove parcheggio a Costanzo lo sento, per dire, no? In parcheggio. Diretto a Costanzo, ma perché ho preso la azione in camion? Cioè non devono aggiustare il camion, come mi hai dato la macchina buona, nuova l'ho piazzata. Adesso da un po' che l'ho preso. Ma lei ce l'ha piazzata? No, no, dice che devono sistemare il camion, quindi non lo metto. E ne ha bucato tutto, c'ha ragione, non è che... se no poi deve portare giù il camion, deve smontarne tutto, una volta c'è il camion nuovo e cose, mette tutto e è a posto. Ma a casa ce l'ha, sì, ce l'ha sempre a casa. Ah, boh, io sono una vita e non lo sento da casa, penso di sì, credo. Credo che ce l'abbia, credo, e non sono sicuro. Perché mi ricordo qualche volta è entrato. Sì, più di una volta è entrato. Sì, vabbè. Già siamo qua, capito? Io qua, vabbè, sta fendo la recita di buco, e anche io adesso altri due o tre passaggi e poi lascio tutto là. Ah, voglio fare una prova, scusi. Vai, va. Allora, il segnale è così com'è? 9, ci arrivo? Schiaccia. Sì, a dopo. È così? No, sei diminuito. Ora adesso stavi passando il 9, sei 9 di segnale modulati picchi dai positivi sopra i 9. Ora, ora, ora, ora. Ehi, a sopra i 9 quando moduli. Solo? Sì, sì, che da me, poi no, solo da altri. Cioè, è piazzata in alto anche, no? Più o meno sì, oggi io ce l'ho a 3-4 metri, là. Ma la 131 si vede? No, no, io sono più all'interno. Eccomi. Gatta, c'è qualche spezzone sempre che mi sta rompendo, eh? Oggi tu qua mi arrivi quasi 9, sì, quasi 9 preciso. Addirittura lì, da te. Secondo io mi allontano, K, sì, ok, 9 mi arrivi qua lo strumentino. Se ieri ti arriva forzata con 5. Ma ieri c'era un bel QRM ieri, cioè proprio ieri ti ascoltavo peggio di oggi ti ascolto meglio. Meglio oggi là, anda bene. Ieri il QRM era molto più alto, oggi è basso rispetto a ieri. Bene meda, dai, almeno il QRM passi riesce a sentirmi, Gert. Se sollevo un po' il QRM è finito, ti tappa di brutto. Vabbè, purtroppo adesso è così, quindi santa arrangia, come ti si dice, quindi mi tengo stretta a questa, poi vediamo un po', facciamo un esperimento con questa pumera. Un attimino già. K. Ma io ti briga di affettarti santezza, già ci sistemiamo piano piano, a pezzo come si dice, vabbè, ho iniziato con questa piccola radio, quindi come si dice, tutto grasso che cola, era una palla dentro un camper, figurati tu, questa era dentro un cassettino, un vecchio, cos'era? Cioè, su base Ducato 2005, turbo diesel se non sbaglio, un Elnag anni 80 se non sbaglio, un motorome, non un campo, un motorome. Ma il tuo? No, di un amico che l'avevamo fermato in una campagna. No, no, perché io c'ho il campo. Ah, vabbè, già lo so. Non so, diciamo che tempo fa mi stava frullando in mente di prendere la moto e prendermi uno, riuscire a trovare praticamente una qualcosa stracomparato mi. Guarda che io ne conosco tantissimo la gente adesso del camper, no? E sono passati tutti dalla motocicletta al camper, perché sono due cose che si assomigliano. Si assomigliano. Insomma, per quanto mi riguarda i bisogni in questo momento sono cambiati, quindi adesso ci sono altre necessità e altre cose che si vorrebbero fare, quindi diciamo che l'approccio alla moto non è più come prima. Se prima era poteva funzionare sia da passione che a mezzo di trasporto, adesso non ha più quel tipo di valenza, capito? Quindi insomma, è un momento di stasi per me, insomma, come si dice, no? Di ripartenza. E quindi sto pensando un po' di cose, insomma. E c'è sempre questa idea di almeno di fare quel tipo di esperimento, appena sarà possibile. Già, piano piano, come dico sempre, piano piano. Non si ferma la prova adesso, non si ferma avanti. In questo momento sono assolutamente fermo, sono proprio fermo, super fermo. Sono reduce da un progetto che, vabbè, non ti so spiegare qua di cosa si trattava, è un progetto che poi alla fine non è andato, cioè si è chiuso, e quindi insomma io ci contavo, e il fatto che chiaramente non potevo mettere i piedi in due scarpe, cioè o stavo da una parte o stavo dall'altra, gioco a forza ho dovuto insomma svincolarmi e staccarmi da un po' di cose. In questo momento adesso mi trovo spiazzato e sto cercando il campo d'atterraggio, come si dice lì. Già ho capito. E niente, vabbè, già si aggiusta piano piano tutto quanto. E quindi, per adesso va bene così, non voglio forzare i tempi, anche le pause servono a questo, ogni cosa ha un senso, quindi in questo momento preferisco, mi va bene così, poi sono sicuro che si muoverà qualcosa, lo è stato in passato e lo sarà anche adesso, quindi non sono così preoccupato, anche se poi la quotidianità lo sai più di me, e determinati ritmi ti portano insomma chiaramente una determinata necessità, e quindi entrano in ballo diversi meccanismi. Comunque ti ripeto, adesso sono qua, vediamo un po' cosa succede. Piano piano, di fiducia, piano piano. Certo che sì. Stavo dicendo, vabbè, la mia idea è più che un camper vero e proprio, è sarebbe carino un furgone allestito, capito? Un Transit, un Ducato anche vecchia serie, un classico furgone, col tetto alto da allestire, capito? Sì, già ci sono i furgoni. Anche a 2-3.000 euro già i trovi, basta, però che funziona, già li trovi. Ma se vendi la motocicletta, con i soldi della motocicletta te lo compri un furgone, un camper, un motorhome adattato, però te lo compri. Poi dipende da quanto, ad esempio il mio collega ha 5.500 euro, ci aveva comprato un motorhome che tuttora sta girando alla grande, nuovo, capito? Sì, ok. Però sai, mi piace più il fatto che esteriormente praticamente sembri un furgone, può essere un pregio o può essere anche un difetto, capito, a seconda delle circostanze. E il fatto che sia più anonimo ha i suoi vantaggi e anche i suoi svantaggi. Comunque, ho visto un sacco di cose su internet di gente che ha fatto delle bellissime cose all'interno di anche di furgoni adattati. Sì, appunto, è pieno. E poi diventa una droga, anche il baracchino diventa una droga. Come ti piace poco a poco, allora vuoi l'apparato con più canali, vuoi il lineare perché non ti bastano i 5 watt, vuoi uscire con 100 watt, diventa una droga, anche il camper così. Lo so, già ci siamo praticamente, come si dice, la moto più o meno è una matricicosa, cioè quante cose abbiamo fatto, sia io che tu, e quante ne stai facendo ancora tu, quindi figurati, capisco benissimo, quindi una volta che ci sei dentro devi stare attento, ragazzi. Ti ripeto una droga, devi stare attento a non cascarci, perché è un casino. Io in un anno ne ho cambiato 3 i camper, figurati. Caspita, ma per esigenze particolari o per sfizio? Diciamo 50-50, perché poi vado al camper, ti accorgi, guardando gli altri, di cosa effettivamente ti serve, capito? Perché tu ne vedi uno che ti piace, bello, poi usandolo dici, effettivamente quello c'ha, quello il mio non ce l'ha, che mi servirebbe, e allora inizi a valutare le cose. Mi piacerebbe avere il camper col garage, perché ci metto tutto in garage là, dentro mi rimane libero, e allora inizi a valutare queste cose e poi ci cambi, fai che lo cambi. Ti ho capito, chiaramente in base ai bisogni, alle necessità che uno ha, poi chiaramente emergono praticamente, come si dice, le necessità, diciamo, dai, quindi sì, capisco benissimo cosa vuoi dire. Ho conosciuto un paio di persone, amici insomma, che hanno trovato delle occasioni hanno avuto la fortuna di trovare delle ultime occasioni, e credo che tuttora ce l'abbiano ancora, quindi è un mondo da esplorare, interessante, come hai detto tu prima, cioè la moto e il camper hanno molte cose in comune, quindi più o meno lo spirito principale è uguale, poi chiaramente cambiano gli usi, comunque lo spirito principale è uguale. Sì, poi il casino è che non sei mai solo, cioè come è capitato a me le prime uscite del campo, mi hanno detto che ero da solo io e Mario. Dice, allora ci fai la sua, vieni con noi, ho iniziato a conoscere gente, a mangiare, a bere, adesso conosco il mondo, e dove vado anche da solo, trovo sempre le amici. Sì, immagino, immagino. Sì, è un mondo per me da esplorare, sì, ti ripeto, appena avrò la possibilità ci voglio provare, capito? Voglio tentare, ci voglio provare e vediamo un po' cosa succede, dai, appena possibile mi voglio buttare in questa avventura. È una bella cosa, fidati, te lo dice uno che ce l'ha, è una bella cosa, anch'io mi sono buttato, la moto, Margherita mi ha detto proviamo, dai, vediamo un po' come è, perché ne compriamo uno così, l'abbiamo comprato, poi abbiamo detto, cazzo, è bella di fattoria, fatta, droga, e subito ho preso un altro più bello, capito? È un casino. Sì, immagino. Sì, e poi vabbè, chiaramente ti apre anche la mente, le possibilità, insomma, è un mondo completamente nuovo, quindi ci sono, si aprono tutta una serie di occasioni di qualsiasi tipo. Sì, è interessante, interessante, bello. Poi anche lì, come i motociclisti, ognuno ha la sua filosofia, ed è bello proprio per questo, che praticamente ognuno se la vive come meglio crede. Bravo, bravo, bello è quello, ognuno se la vive come vuole. Ti piazzi lì, pensa per i fatti tuoi, oppure fai presa con gli altri, come vuoi tu, no? Non è un problema. Sei sempre all'aria aperta, immerso nella natura, e birretta sempre fresca perché c'è il frigo e funziona bene. Sì, sì. Il tuo Ege quanti metri è? Il mio? Dico, quanti metri è il tuo? 7,50 metri. Cazzo, dall'ATP proprio. Bello, bello mazzito, come si dice. Sì, sì, è bello grande, cazzo. Sì, è grande, è grande. Questo mio, l'ultimo che ho preso, è grande, sì. Ma cosa è? Cosa c'è, la mansarda o sono... o è, adesso non mi ricordo come si chiamano quelli che non hanno la mansarda, cazzo, aiutami. Semi-integrale, no, è semi-integrale il mio. L'ho avuto con la mansarda, ma non me ne facevo niente. E allora l'abbiamo pensato, ci abbiamo preso questo Leica semi-integrale. Semi-integrale, non mi veniva il termine. Sì, sì, cose belle. Sì, poi chiaramente, ti ripeto, in base ai bisogni e necessità uno si attrezza. Sì, io rimango un po' più, mi piacerebbe qualcosa di più, ti ripeto, di più discreto, classico furgone arredato dentro. Mi ci vedo bene con una cosa del genere, capito? Tipo i Bullitt, quelli Volkswagen vecchi. Ma guarda, sono belli da vedere. Sono solo belli da vedere, perché poi l'inverno è un casino. Lo so, chiaramente la comodità ha tutti i suoi vantaggi. No, parlo di qualcosa di più grande. Cioè, tipo Ducato, Transit, con tetto alto, passo lungo, una cosa del genere, capito? Quindi ne ho visto altri. Vabbè, adesso va di moda, praticamente ho visto che lo Sprinter è praticamente il più customizzato. Sì, Ducato, guarda, quello che c'era tu, Ducato, quelli lì li trovo alla grande, quelli sono belli, sono belli. Sì, ultima scelta, li trovo anche da stati a poco. Avevo beccato un'occasione qualche anno fa di un Ducato prima serie, tetto rialzato, revisionato a livello di meccanica, non ne volevano tanti soldi. Sì, aveva qualche piccola botta di carrozzeria, era stato riverniciato, sai, comunque stiamo parlando di lamiere grandi, quindi i segni si vedono comunque, però sembrava onesta come cosa. Tempo neanche una settimana è sparito, e quindi il tipo l'ha fatto fuori subito. Sì, perché sono mezzi, i camper, la gente ha capito che il camper è un'ottima soluzione per farsi le ferie, per uscire sabato e domenica. È perfetto, il camper è perfetto. E poi di bollo non fai un cazzo, di assicurazione non fai nulla, 100-200 euro l'anno di assicurazione. Bene. Ho un amico che ce l'aveva, adesso non so se ce l'ha ancora, adesso credo che sia stabilmente, adesso sia stabile a Capotesta, non so se lo conosci, i Sassari, Peppone Pudiche, aveva un camper. Peppone Pudiche, ma Peppone faceva il muratore, non fa il muratore il padre, comunque c'ha una mini impresa. No, è stato anche tanti anni in Valle della Luna, insomma, carissimo amico. E per un po' ha avuto il camper, non so se c'è ancora. conosco un Peppone, io ne conosco uno Peppone di Sassari, c'era, frequenta dove vado io lì alla Ciaccia, però non so se è lui. No, no, credo che non sia lui, no, credo che non sia lui. Adesso non mi ricordo l'ultimo camper che ha avuto, perché il primo era un vecchio Ford Transit gemellato, passo lungo, non mi ricordo se c'era un Leica o un... boh, adesso non mi ricordo la marca. Vecchio Transit, poi se l'aveva cambiato, aveva preso, non ti voglio dire cazzate, forse era un base Ducato, credo, e poi boh, credo che se l'abbia venduto. Oh, non lo so, non lo so, c'è un sacco di gente, c'è un sacco, oggi lo rivedrei lo sbarco della nave di Barcellona, io ero lì, minimo sono sbarcati 100 camper, minimo, tutti targati spagnoli, tutti in camper, lì, faccio la Pasqua qua, cosa vedi? Certo, centinaia di camper, cro cro, ma con la Grimaldi dici? Esattamente, con la Grimaldi. Eia, sì sì, una volta l'avevo presa in diurna, la Grimaldi, cazzo. No, però non ho Porto Torres, cioè Porto Torres Genova. E poi, sì, eravamo saliti con la macchina, poi da lì, praticamente da Genova siamo andati a Barcellona in macchina, siamo partiti di notte, era d'agosto, manco male. Questa è un'avventura, ragazzi. Dove ci siamo visitati in campo? Oh yeah, frigo acceso. E poi il frigo è equivalente. Sarebbe che va a 12, a 220 e a gas. Quando sei in viaggio lo mandi a 12, che c'è già la roba fresca, la tiene fresca, una meraviglia. Oh yeah, ogni tanto si scappa la tira, cosa ride? Sì, l'idea era quella di affittarne uno, però poi alla fine il nostro budget non ce lo consentiva, quindi siamo dovuti salire in macchina, dovevamo trattenerci praticamente una ventina di giorni, 25 giorni lì vicino a Villa Franca del Penedès, che è 60 km da Barcellona, e quindi il budget non ce l'ha permesso, comunque è stata una bellissima avventura. Me lo immagino. Va bene Gianni, io ti saluto, ci sentiamo magari domani, che sono gli spaghetti con i gamberoni che mi stanno aspettando. Dai, ci sentiamo e ciao con tutti gli altri, ciao. Ok, ciao amico mio, un abbraccio, ben sentito, salutami Margherita, anche i gamberoni con gli spaghetti, e niente, dai, ci sentiamo appena possibile. Ok, buona serata e buon tutto. Ehi, ciao già, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao. Avanti. Attento, Daniele. Ciao Tino, sono Gianni, buonasera. Ciao Gianni, vabbè, aspetta che sto formando l'altro. Vabbè già, sto a posto? Più o meno, c'era un po' di gente, poi si sono spostati giustamente per fare le loro cose, e quindi niente, ho chiuso anche io, ho lasciato il baracchino acceso, ho sentito il tuo fischio. Già, ero tra virgolette in giro, sono entrato adesso, quindi ero la famiglia, e poi sono andato a trovare l'amico qua in zona, sono entrato adesso. Bene Mera, sì c'era Claudio, Massimiliano, Daniele è entrato, Antonello, Marco Condor ha fatto una puntatina veloce, ha fatto un paio di passaggi, Eugenio da Bocciodorra, e niente, tutto qua. Ho capito, guarda già, in situazione va così, vedi un po' se ha cambiato, vabbè, sicuramente ha cambiato la radio, ma dimmi se satura oppure se va bene. È un po' posatorina, Tino. Bene, ho cambiato, guarda un attimino, c'è cambiato qualcosa. Vai di nuovo. Perché c'era il microfono un pochino chiuso, è il tono 1, e mi ricordo che doveva essere così invece. Dai, così mi sembra un po' meglio, dai, non so cosa, qual era l'altro valore precedente, così mi sembra che va, così a orecchio, mi sembra che vada un po' meglio. Bene, ho abbassato il watt, guarda si è cambiato. Adesso è meno strozzata rispetto a prima, capito, cioè strozzata, satura. Va bene, va bene. Ricambio, no aspetta, ricambio, te lo metto. Perché stai innescando? Cioè, senza watt puoi innescare. Questi sono i watt di lì, diciamo, dell'apparato, però senza watt mi hanno detto che così va meglio, vedi, 1, 2, 3, prova, mentre invece quando vai a attaccare devi regolare un pochino il microfono. Sì, così è più, così senza l'aggiuntina, senza l'aggiunta è più pulita e più chiara. Va bene, ogni tanto devo fare usare anche questo. Quanto sta arrivando? Che sono i fatti dell'apparato, Così mi dai conferma di uno e dell'altro, poi se mi vuoi attenuare per avere un riferimento più stabile, se ti arrivo magari un po' troppo forte, mi puoi anche attenuare a un numero a tuo piacere. Guarda qua, a strumentino mi arrivi dai, cioè, sei tra i 9.10 e i 9.20. Però aspetta, Vediamo se abbiamo stazionato. Abbiamo. Ora, dai 4 ai 15 watt modulati, non di più. Quindi, penso che qualcosa è meglio, no? Comunque. Guarda, l'ago dello strumentino fisso è tra i 10 e i 20, più propenso verso i 20. Questo è il referto che ti posso dare, T. Allora, fa una cosa, prova a chiudere il referente, dai, sì? No, non c'ho niente, io c'ho solo il volume e lo squelcio e basta. Ho capito. Lo stai usando uno di quelli piccolini? Veicolare, un 40 canali anni 70 e... sì. Della Midland? No, zero Midland, è roba giapponese, made in Japan. Ah, vabbè, quindi non puoi attenuare. Vabbè, non fa niente, vedi un po', allora, portante fissa te lo faccio, così almeno non va oltre lo smitter. Ci sei? Sì. Ok, vai. E questo è l'altro. Adesso si è aumentato, 9.20 abbondante. Addirittura, quindi questo dà più watt dell'altro, Così senza modulare. Sì, proprio c'è laghetto, praticamente laghetto sul 20 fisso, è proprio pieno. Questo vabbè, fa massimo 10 watt, sarà 8-10 watt. Ho capito. Pensavo che l'altro va quasi 20, mi ha detto, in modulazione, giusto? Sì, è leggermente un attacca, l'altro è un attacca in meno rispetto a questo. Ti faccio un'altra prova con un altro, vedere se proprio sono tutti veicolari questi, Guarda questo. Questo è 9.10 e spiccioli. E i picchi? Vai di nuovo. Ora. Sono buoni, sì. No, perché mi sa che quell'altro, questo con l'eco è un pochino più, meno portato con i batti, Ho capito, vabbè, la radio era completamente diversa dal tuo solito, con l'ultimo passaggio che hai fatto. Sì, vabbè, quello è il microfono normale, poi aiutato con la scatola, ecco. Però mi è parso che ho riportato qualche cosa all'interno, perché dava più vado prima. Ok, sì, guarda, poi chiaramente tieni presente che io ti sto dando il referto col mio strumentino, che per quanto possa essere attendibile, quello vedo e quello ti dico. Già, va bene, figurati, mamma, niente di che. Ok. Aspetta un attimino, provo con quest'altro microfono, se riesco a attaccarlo. Eccolo qua, guarda questo invece, sempre a portante fissa, 9-10 Tino. Con picchi? Hola. Sì, 9-10 con picchi. Questo è il microfono dinamico, diciamo. Sì, chiaramente la radio risulta più bassa, però pulita, limpida. Va bene, grazie. No, perché avevo... Devo riportare in caserma, a casa sua, quindi era giusto l'ultima prova da verificare. K, sì. Un tagliando li stai facendo, dai. Così ogni tanto, per divertimento. Bene meda. Dai, io sgancio adesso. Non so se più tardi può provare a accendere, vediamo se salta fuori qualcun altro. E niente, dai, ti saluto e eventualmente o più tardi o alla prossima, ok? Non problema, ciao già, ci si sente, dai, tanto anche io adesso. Mi organizzo a fare una cosa per il fine serata. Ciao, buon divertimento, buono tutto per domani. K, buona serata e buon proseguimento, dai, alla prossima. Ciao. Chi è? Buonasera Tino, no. Antonello. Ciao Antonello, va bene. E allora come andiamo? Bene, aspetta un attimino che sto disturbando. Sto disturbando un'altra frequenza. Vabbè, cosa mi dici? Ci sei caricato, sei saturo, sì. Sto saturo, sono già niente, attaccato. Sì, saturo, mi caricato sempre che sì, a un certo punto. Sono con il vato dall'apparato, magari è poi toccata l'amplificazione, vabbè, non mi frega, va bene, va. Attacca il MB5, a un certo punto, scusa, non ti costa niente. E MB5, attacca quello e sei a posto. Non ho voglia. Aspetta, il cambio da radio, dai. Aggancia quello, fregate. Va bene questa? Prova. Questa va bene? Era ora. E questa è normale, avanti. Il 48, quindi non ti piace l'altro? Quello va bene, c'è picchi positivi, ma va bene, è chiaro il radio. Vuoi i toni? Così, devi mettere i toni. Prova un po'. Ecco qua, accontentato. Lascia così e a fottettino. E vabbè, qua poi, se devo attaccare, sempre per regolare il microfono, ma già va bene così. Ok, andare, meglio così. Cosa stai utilizzando? Questo? Tu cosa stai utilizzando? Un microfono amplificato palmare, la verità. Con cosa però? Con il 2009, sale uguale. Già va bene. Anda bene, me la aspetta che attacco il saluto, che faccio sentire, 2 minuti, eh? Beh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', cosa cambia? Cambia qualcosa? Sì, è migliore così secondo me. Esco meglio? A voglia. Ok, già va bene, meglio così, sono contento. Va bene. È proprio bella, chiara, presente, va bene. Visto, a un certo punto, a poco, col 2009, quello che è, che sei tranquillo in pratica. Non sto comprando niente, io perché ce l'ho già. E meglio così, sono contento anch'io. Aspetta un attimo, adesso sto facendo una cosa. Aspetta un secondo, mi stanno chiamando i 7000 qualcosa. Un minuto. Ehi, dammi la frequenza. Ma dove? Dimmi tutto, dimmi. 5 minuti. Volevo scendere giù a mio fratello, dimmi tutto, mi rottino. Ah, adesso lo chiedi in un'altra frequenza. Pensavo che eri in un'altra frequenza. No, no, tranquillo, già lo sai che io vado su canale 7 in coso, spagnolo, quindi ci parlo tutti i giorni, a un certo punto, quindi sono qua. Tranquillo, tranquillo. No, perché sento, devo andare, non ho chiamato nei 7000, 7000, e tu cosa ci fai 7000 a questo? 6.680 per la testa, stasera. Ho fatto la prova ma non mi sentivano, capito? Sì, ma dove? 7.000? 6.630. Sempre in pratica la frequenza dei 45 metri, sabbi. Il discorso è quello. 6.630, pirata. Appunto. Perché ce l'hanno anche uno? Ma non c'è più nessuno, vabbè, ma stiamo facendo le prove più che altro. Sì, prima eravamo lì. Ok, ok, vabbè. Andare, andare. Vabbè, adesso subito nuovo. Adesso guarda, mi preparo una cosa da mangiare. Oh, aspetta, guarda, sto scendo di testa, guarda oggi. Perché? Perché mio nipote è in Germania, e la sorella è giù, qui a un certo punto cosa cazzo vuole pensare se vuole? Se ne è fuggita, non può stare, se per la madre, alla madre, e ha detto quindi, a un certo punto. E se va a tocca in culo, se va a tocca, diceva quello. Venuta sola. È fuori la macchina, già l'hai vista. Se passa è fuori, mi. Vediamo quando la prende, non lo so io, se no mi. Se ci passa il caso a pezzi, cosa me la fai a me? A un certo punto. No, sono fuori, ma la sta utilizzando o cosa? La macchina a posto adesso. No, ma solamente. No, vabbè, la situazione è a posto. Tu va solamente fatto il resto, quindi è tranquilla. Adesso perlomeno, non lo so, questo non lo so. Allora, detto così, cioè, è tutto a posto, dice, ho fatto la. Quello devo fare per la macchina, mi ha detto. Vabbè, e però hai detto tu, io ho detto, non lo voglio neanche sapere di questa macchina. Ma io volevo sapere se la sta prendendo sì o no, e devo dare una risposta. Non ho capito, se vuoi sapere se. Se la sta vendendo o meno. No. Io ha regalato vicino la sua, ha detto, ieri, non lo so. Vabbè, sai che gli racconta male a volte, quindi a un certo punto. Quindi cosa. Non so neanche cosa che so fare, la verità. Ha messo dei migliorati, poi non lo so, non so lì cosa cazzo fare, se è da notte, a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6, se fa la pezzi, no, non lo so la verità. Ah, io penso che la stava vendendo, perché lo so detto. Anche io lo so che stava vendendo, il discorso è quello. Va bene, e allora? Niente allora. Comunque la macchina è sotto, ho visto fuori, a un certo punto l'ha sistemata e quindi adesso vediamo lei cosa andiamo a fare, o le piglia uno o le piglia l'altra di macchina, il discorso è quello. Va bene, sapevo che la stavano vendendo, quindi ti ho fatto la proposta. Vado. Non fa niente, eh. E se va a me? Mi ha fatto sapere me di quella macchina. Non saranno. D'accordo, eh. Va buono, Antonello. Cioè, vado a preparare la cosa anche domani. Devo uscirci presto. D'accordo, ok, a domani allora. D'accordo, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, a domani. Ciao.